Nella zona del villaggio Due Madonne viene abbattuto una struttura in cui era contenuta una ditta privata che si trasferisce. Al posto di questa struttura un costruttore chiede l'autorizzazione di costruire 3 palazzi da 11 piani l'uno per 78 appartamenti complessivi. Bisogna tener conto che al villaggio Due Madonne tutti gli altri palazzi attorno sono di 3 piani. E questo cosa produce? Produce ovviamente che per, come dicono loro, rispettare il non consumo di suolo nuovo, consumano e privatizzano l'aria e la luce, perché tutti i palazzi intorno non avranno più il sole. Tenete conto ad esempio che in alcuni palazzi attorno gli inquilini avevano ad esempio deciso di mettere i pannelli fotovoltaici sopra i tetti e adesso non lo potranno più fare perché non c'è più la luce. Tutta la storia nasce anche da una vicenda che coinvolge l'allora candidato alle primarie del centro-sinistra Matteo Lepore, che viene intercettato da un gruppo di cittadini in piazza Lambrakis, che è la piazza vicina dove c'è al villaggio Due Madonne, e alle loro rimostranze su questa cosa di cui non erano stati informati dice che farà di tutto per impedire la costruzione di quegli ecomostri, così li definisce lui. Pochi giorni dopo Lepore, da assessore nella giunta e nel consiglio, vota a favore della convenzione tra il comune e i privati che devono costruire fine luglio. Il 16 agosto c'è l'ok alla cantierizzazione dei lavori, 16 agosto per notare la data. Da lì si costruisce un comitato di cittadini della zona, ma non solo, diciamo del quartiere, che decide di continuare la battaglia per impedire la costruzione di questi palazzi. Decidiamo di fare una raccolta firme per chiedere l'attivazione di un consiglio di quartiere aperto alla parola dei cittadini. In 2 mesi raccogliamo oltre 300 firme, ne servivano 250, ne sarebbero bastate, e mercoledì scorso siamo andati a questo consiglio in cui erano presenti in collegamento anche l'assessore Laudani e l'assessore Orioli, cioè urbanistica e mobilità. L'Orioli era all'urbanistica nella giunta precedente, quella l'ultima di Merola, ed è quella che ha seguito questa partita dei palazzi, che rivendicano la correttezza formale di tutte le pratiche e quindi dicono dovete tenerveli, però adesso dovremo studieremo una modalità diversa per il futuro. Ai cittadini, a noi non, questo discorso non è andato bene. Dulcis in fondo, alcuni di noi chiedono all'AUSL se nei lateristi provocati dall'abbattimento del palazzo precedente, dello stabile precedente, ci fossero materiali pericolosi, lana di vetro, lana di roccia, amianto. L'AUSL ci risponde che l'azienda incaricata ha dichiarato che non ci sono materiali pericolosi. Pochissimi giorni dopo viene trovato l'amianto mentre stanno scavando nelle fondamenta. Durante lo scavo bisogna anche tener conto che c'è stato alcuni giorni in cui c'erano rumori e tremori così forti che la scuola dell'infanzia che c'è lì attaccata al cantiere, cioè a 6 metri dal muro del cantiere, i bambini sono scappati dalle classi e si sono messi fuori perché si erano presi paura dal rumore e dalle vibrazioni che c'erano. Viene trovato l'amianto e fra l'altro lo veniamo a sapere prima noi che il comune. L'assessore dice: mi impegno a verificare se è possibile interrompere i lavori e fare la bonifica. Noi, siccome siamo dei malfidati, non crediamo più se non vediamo con i nostri occhi, abbiamo convocato un'assemblea dopo il consiglio di quartiere aperto. E in quell'assemblea abbiamo deciso di iniziare da ieri un presidio, diciamo così, permanente, un mini presidio permanente, perché ci dividiamo un po' i turni, all'ingresso del cantiere per verificare che i lavori continuino e che ci sia lo smaltimento corretto dell'amianto. Fra l'altro ieri siamo stati supportati anche da Vito Tottiere, che è un medico specializzato tra virgolette in medicina del lavoro e amianto. Siete anche entrati in possesso di una lettera che gli assessori, in particolare Laudani e Ara, hanno inviato alla dirigente scolastica della scuola lì vicina. Sì, certo, siamo in possesso perché gira nelle chat dei genitori e abbiamo letto questa lettera, abbiamo visto questa lettera in cui i due assessori comunicano alla dirigente scolastica ieri, quindi il giorno di inizio dei lavori, che quel giorno lì inizieranno dei lavori di bonifica dell'amianto e non gli dicono però né come si deve comportare rispetto ai genitori, ai bambini e alla scuola in generale e al personale, e né gli dicono quando finiranno i lavori, almeno come previsione. E questa cosa secondo noi è scandalosa, perché tra l'altro noi siamo andati anche a guardare sul sito del quartiere e non c'è scritto nemmeno che è stato trovato l'amianto. È una cosa che secondo secondo noi scandalosa, che nessuno dica niente sulle cose, è uno degli elementi che ha fatto più arrabbiare i cittadini. Quindi voi oggi, appunto, anche oggi siete in presidio, sostanzialmente cosa chiedete? La nostra richiesta generale è che vengano bloccati i lavori e si ridiscute del progetto fino a quando almeno non sono risolti i problemi e vengono date risposte a tutte le domande che noi abbiamo posto dentro il consiglio di quartiere sulla necessità di costruire quei palazzi, sui danni che vengono prodotti ai cittadini, sui danni ambientali e quant'altro. Ovviamente in questo momento noi chiediamo che i lavori che abbiamo visto noi con i nostri occhi ieri, le ruspe lavorare ancora nella zona subito attorno a quella delimitata per la presenza dell'amianto, lavorare nel cantiere, che i lavori vengano sospesi fino a quando non viene tolto tutto l'amianto. Questo è quello che noi chiediamo immediatamente.